Contemporanea, moderna, quindi nel caso del film, storico, o sia, ormai racconta se stessa. Racconta se stessa attraverso la donna rossa, di giovani attori e registi. Penso che sia questo anche il caso con la sua proprio anche dal sindacato dei pescatori di carne. Sono stati arrestati soltanto stati in un luogo specifico. Secondo l'ultimo rapporto delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari militari, ci sono circa 3.500 detenuti registrati oggi a Gaza. Almeno 7 persone sono state uccise, altre 5 sono rimaste ferite nell'esplosione di un'autobomba a Homs nella Siria centrale, dove riferisce l'azione di Stato in Damasco, spiegando che lo scoppio è avvenuto nel distretto lealista ad Avia. Non c'è nessuna rivendicazione per il prezzo, ma per episodi di questo genere il regime di Bashar al-Assad ha finora sempre puntato il dito contro i ribelli di fronte al mostro allegato dall'Italia. Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu hanno parlato della crisi in Siria in un colloquio al telefono, lo ha reso noto il Cremlino. Il premier israeliano, che il mese scorso aveva incontrato il presidente russo a Sofia, si oppone con forza alla vendita di sistemi di difesa aerei russi S-300 al regime di Damasco. Le milizie fedeli alla famiglia Assad al potere in Siria e gli Hezbollah, nazisti sirio iraniani, hanno sconfitto l'ultima sacca di resistenza locale a sud ovest di Homs, nella regione di Qusair. Lo riferiscono stamani la TV siriana ufficiale e la TV al-Manar dello stesso movimento sirio dell'Italia. Al-Manar, il tribunale, ha già messo in discussione le prime pagine dell'ingresso delle forze di Assad nella parte orientale. L'informazione non può essere verificata in maniera indipendente. Sono le 20:20 da Radio Cairo, state ascoltando il notiziario. Il partito islamico AKP del premier Recep Tayyip Erdogan sta preparando un raduno di massa domani ad Ankara in occasione del ritorno del capo sloveno nella capitale, lo riferisce il quotidiano Mattino. La manifestazione potrebbe essere una dimostrazione di forza del partito di governo in risposta alla protesta anti-Erdogan che ha visto scendere in piazza negli ultimi giorni centinaia di migliaia di oppositori in tutto il paese. Nelson Mandela respira da solo e questo è in Africa. A proposito delle condizioni del premio Nobel per la pace che stamattina è stato ricoverato per un'infezione polmonare. In un giorno hanno detto che respira da solo e penso che questo sia un buon segno, ha detto il portavoce della presidenza sudafricana, Meg Maharajan. Liba è un combattente interrotta speramente agile. Dopo mesi di tensione, la Corea del Nord e quella del Sud hanno trovato un accordo per organizzare un incontro di lavoro domani nel villaggio di confine di Panmunjom. Lo affermano fonti del governo di Seoul. Ognuna delle due Coree invierà 6 delegati per sondare il terreno in vista delle trattative di più alto livello, specificato il ministro sudcoreano che l'ultimazione si realizzerà da settembre 2011, almeno in veste ufficiale. 3 soldati dell'ISA sono stati uccisi nella provincia afghana di Jalandhar, vicino al confine con il Pakistan. Lo riferisce la NATO, citata dalla BBC online, precisando che l'aggressore indossava l'uniforme dell'esercito afghano. Oggi a Farah, un soldato italiano dell'ISAF è morto e altri 3 sono rimasti feriti in un attacco contro il loro convoglio. E il 56 dei 26 arrestati, il bilancio degli scontri scoppiati da Sassari in Brasile, in seguito alle manifestazioni di protesta contro le armi di presa di Vietnam. Alcune migliaia di persone hanno sbloccato la circolazione in diversi quartieri della città e sulla via principale, a Maubita. Ma le proteste hanno avuto luogo anche in altre città, come Rio de Janeiro, Joania e Natal, dopo l'aumento del 7% del prezzo dei biglietti di autobus, metro e treni, saliti da 3 a 3,2 reais, da 1,5 a 1,6 dollari. E questa era la nostra ultima notizia da Radio Gamma. Vi abbiamo trasmesso il notiziario. Dossier economico. Dovremmo pure investire. Non dovete fare ascoltatori, non dovete. portare nel nostro programma e la potete trovare nella raccolta sulla popolazione frequentina necessità del millennio, esigenze e impegni delle vite. Il raccolto questo avrà risultati esatti sulla vita. Nel corso di una riunione straordinaria sotto la presidenza di Susan Bonsi sulle posizioni della vita del millennio, la relazione ha presentato un esposto dettagliato del tale progetto. Il capo della diplomazia ha proposto dei mezzi per affrontare tale questione. Come fonti responsabili dell'insieme di Lima, hanno rilevato i risultati da rapporti ufficiali elaborati dalla Commissione Presidente incaricata della valutazione degli impatti di tale vita. Questo rapporto è stato sottoposto al capo dello Stato tutte le deficienze che si trovano in diverse parti del studio e con i disegni elaborati da rapporti e ha aggiunto che tali problemi sono bisogno di rifinanziamento. Il rapporto ha sottolineato la necessità della presenza di riserve d'acqua che assicurino il minimo dei bisogni dei due paesi in queste difficili condizioni. Il rapporto finale della Commissione Tripartita, incaricata della valutazione degli effetti della vita del millennio, ha assicurato che gli studi presentati dall'impegno non contengono nessuna analisi economica concernente la potenziale costruzione e la capacità della centrale elettrica che sarà intrapresa in Italia. Nel caso di profondità, gli economici non permettono alla Commissione Tripartita di valutare bene gli impatti di questa vita sul Egitto e sul Sudest. Il rapporto finale ha indicato che l'Etiopia non ha presentato sufficienti studi imparziali per restare non esistono gli impatti della riduzione della vita, uno degli attivi essenziali che devono essere attuati prima della messa in opera di qualsiasi nuova vita. Il rapporto elaborato dalla Commissione Tripartita ha anche precisato che le cattive ripercussioni dell'allentamento della vita durante le grandi e medie inondazioni si limitano all'elettricità prodotta dall'alta vita. Gli studi hanno mostrato che nei tempi di siccità l'acqua dell'alta vita era migliorata leggermente bassa nel corso di 4 anni successivi, fatto che avrebbe le cattive conseguenze sulla quantità di acqua di inondazione e sulla capacità di produzione di elettricità fatta di termini di rifiuti. Il ministro dell'irrigazione ha annunciato che l'Egitto trasferirà i limiti dell'acqua. Le risorse iniziali in acqua non sono limitate dal tempo dell'adozione della convenzione di diffusione dell'acqua del 1959. Conformemente a tale convenzione, l'Egitto riceve 55 25 miliardi di metri cubi d'acqua all'anno. Questo quando la popolazione era di soli 20 milioni. Questa parte dell'acqua del flusso è rimasta la stessa, mentre il numero di abitanti era di 85 milioni attualmente. La vita del millennio avrebbe avuto degli impatti catastrofici sulla vita in Egitto. Così a fine lo programma di questa sera. Appuntamento alla prossima settimana. Radio Power vi abbiamo presentato il dossier economico, un programma di cura di Alfa Rask, presentato per questa settimana. Ma Radio Power è un programma? Termine il 31 maggio, sono febbraio Thank you.

Thank you.